Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Ho impreso e compito un viaggio in 42 giorni intorno alla mia camera. Ogni uomo sensato, io non ne dubito, vorrà appigliarvisi, di qualunque indole, di qualunque temperamento egli sia. Coraggio dunque, si parta. Gli sgraziati, gli infermicci, gli annoiati, quanti ne sono al mondo, tutti mi seguano. Tutti i poltroni si levino in massa. Noi procederemo a picciole giornate. Nessun ostacolo potrà arrestarci e, abbandonandoci gaiamente alla nostra immaginazione, la seguiremo ovunque le piacerà condurci. Buona domenica, buon pomeriggio. Viaggio intorno alla mia camera di Xavier de Maistre, scritto nel 1794, è tra i libri più gettonati in questa quarantena. Un viaggio dove non si va da nessuna parte, si rimane fermi, ma si può volare ovunque con la propria immaginazione, ed è quello che cercheremo di fare in questa puntata, anche se non è facile distrarci dal contesto in cui stiamo vivendo, perché torniamo a parlare di viaggio in bicicletta, di cicloturismo. Lo faremo anche in immaginando quale potrà essere il ruolo di questo settore in futuro, lo spazio che potrà occupare questa modalità di scoperte, di valorizzazione di un territorio nell'ambito anche di una nuova idea, di un nuovo paradigma che secondo molti dovrà guidare le scelte turistiche, cioè più consapevolezza, più sostenibilità, maggiore attenzione alla persona. Ma prima lasciamoci ancora trasportare da qualche suggestione. Bisogna ascoltarlo, il ronzio della ruota della bicicletta, mentre si scende sulla pista ciclabile da Tarvisio, immersi nelle montagne del Friuli. L'unico suono che accompagna i ciclisti è il fragore delle acque e il canto degli uccelli. Ma immaginando con la mente il treno sbuffante che si arrampicava su queste montagne, ogni giro di pedale significa entrare in un mondo fantastico, dove nel cielo volano i grifoni e percorrere luoghi colmi di storia. Questo era un piccolo estratto di un articolo di Andrea Ferraretto sulla ciclabile dell'Alpe Adria, collaboratore della stampa Tutto Green e grande appassionato di cammini e di viaggi in bici, autore di Lentamente 25 itinerari a piedi, in bicicletta e in treno per scoprire l'Italia più piccola. Buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio a voi. E allora Andrea, è ancora forse presto per alcuni cominciare a sognare, a immaginare un viaggio, no? Ma qualche riflessione possiamo cominciare a farla su quello che potrà essere il turismo del futuro, un turismo forse che subirà una svolta verso la sostenibilità più marcata dopo questa epidemia, cambierà il nostro modo di viaggiare. Tu come la vedi? Io penso che in questo momento sia necessario ricorrere a tutta la nostra forza per ripercorrere i paesaggi, i ricordi, le emozioni dei viaggi che abbiamo fatto, perché quando finalmente finirà questa maledetta epidemia avremo una grande sfida, che sarà quella di scoprire la bellezza e la qualità dei luoghi che abbiamo accanto, e che in qualche modo sarà anche una sfida per partecipare alla rinascita dell'Italia. Secondo te cambierà anche la fruizione turistica, cioè veramente il viaggio lento, il viaggio a piedi, la bicicletta, potranno avere anche una nuova opportunità? Questi giorni di lockdown ci stanno facendo sperimentare quanto sia importante godere dell'aria aperta e della possibilità di percorrere a piedi, in bicicletta, comunque riscoprendo il gusto del tempo, che è quello che ci consente anche di rallentare, di fermarci per ammirare un paesaggio, un tramonto, per fermarci accanto a un albero e sentire l'albero che respira insieme a noi. In questo momento, secondo te, il valore della bellezza, no? In questo momento in cui siamo chiusi, un po' incatenati dentro casa, forse incapaci di sognare, non lo so, magari tu ci riesci forse, no? A sognare e immaginare. Però, insomma, il valore della bellezza lenisce un po' questa nostra condizione, tra virgolette, di reclusi. La bellezza e la contemplazione della bellezza sarà sicuramente un'occasione per far ripartire la nostra voglia di viaggiare, di conoscere, di incontrare. Oggi noi in questo momento stiamo veramente sognando di ritrovarci insieme a fare quelle cose che prima ci regalavano gioia e condivisione dello stare accanto uno all'altro. Ma la bellezza del viaggio lento, cioè la lentezza, che cosa ti consente di scoprire? La lentezza, per come l'ho vissuta io in questa mia lunga esperienza di viaggi, è soprattutto l'idea di immergersi in un luogo, di ascoltare i racconti di quel luogo. Significa in qualche modo recuperare quella capacità di non immaginare un viaggio in termini di quantità di chilometri percorsi, quanto piuttosto di qualità di emozioni e di sensazioni che si sono raccolte. E secondo te la bicicletta avrà un posto particolare nel futuro per quanto riguarda i viaggi, il turismo? La bicicletta in questo momento per me è un grande sogno, perché essere accompagnati dal suono del vento, dei fiumi e dalla ruota della bicicletta che continua a camminare è oggi in qualche modo un'ulteriore forza che può servire a sognare. Scriveva Barricco qualche giorno fa su Repubblica che è il tempo dell'audacia. Dobbiamo in qualche modo essere audaci, affrontare questo periodo doloroso di tristezza e di sofferenza per immaginare quanto sarà importante invece sognare la rinascita e la ripresa. E allora cerchiamo di sognare anche un po', anche se è difficile, no? Riuscire a distrarci da questo contesto, però forse si può anche cominciare a sognare, ad essere audaci nei sogni. Si può sicuramente ricominciare a sognare, perché una grande garanzia è il fatto che questa bellezza dei paesaggi italiani, che sono spesso legati alla piccola agricoltura locale e alla cura della terra, in questo momento è custodita, perché comunque ci sono parchi, aree naturali protette, contadini, vignaioli, nel senso che il mondo non si è fermato, il mondo non si fermerà. Dobbiamo essere sufficientemente forti e audaci per immaginare il nuovo tempo che ci aspetta. Torneremo dunque a viaggiare, a farlo anche con la bicicletta, torneremo probabilmente a farlo prima in Italia e poi al di là dei confini nazionali. Ma quali prospettive, quali scenari si aprono per questo settore particolarmente colpito dall'emergenza sanitaria? Ne parliamo con Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo. Le prime risultanze che ci troveremo con un nuovo paradigma del mondo dei viaggi. Faremo fatica a ritornare, ci vorranno probabilmente molti anni per ritornare ai volumi di traffico internazionale a cui eravamo abituati. Nel nostro paese il 51% dei viaggiatori era ormai proveniente dall'estero. Dovremo fare i conti con una situazione in cui per i prossimi 2 o 3 anni probabilmente questa quota, che è in questo momento zero, ricomincerà a crescere gradualmente. Questo periodo dovremo, tra virgolette, farcela da soli e quindi puntare molto sul turismo domestico, che diventerà un turismo di prossimità. Anche dal punto di vista sociologico c'è anche un cambio del modo in cui l'italiano cercherà di ripartire per le vacanze. Ecco, ci si ricomincerà con vacanze brevi in località di prossimità, in destinazioni vicine. Questo, diciamo, dovrebbe mitigare, anche se molto parzialmente, la perdita della grossa fetta del turismo internazionale. In questo contesto, che ruolo potrà avere il cicloturismo? Noi crediamo che le tipologie di turismo di nicchia che guardano al territorio, alla sostenibilità e dei modelli di fruizione, tra virgolette, leggera della destinazione saranno quelli che vinceranno. Il cicloturismo è una delle, diciamo, delle regine dei settori che noi pensiamo saranno driver per la ripresa, anche perché, come dicevo, ci sarà tanta voglia di stare all'aria aperta, di vivere il territorio. All'inizio crediamo difficile che la gente prenda un aereo e vada all'altra parte del mondo per fare una vacanza, probabilmente riscoprirà il gusto della vacanza con la famiglia, con gli amici più stretti. Credo che una formula turistica come quella del cicloturismo sarà una delle componenti più importanti della ripresa. E noi ovviamente stimoleremo il più possibile queste formule, che non riguardano ovviamente solo il cicloturismo, ma riguardano anche il turismo enogastronomico, il turismo culturale, ma anche il turismo religioso, il cineturismo, quelle fette di turismo di nicchie che consentono di diversificare l'offerta turistica, distribuirla in maniera più omogenea sul territorio, ma come dicevo, dopo 60-90 giorni di costrizione domestica, immagino che la gente avrà tantissima voglia di pedalare all'aria aperta e quindi ci auguriamo e speriamo che quanto prima le nostre ciclabili stupende e meravigliose che abbiamo in tutto il paese siano piene di bambini e famiglie e persone che approfitteranno della bella stagione per stare fuori. E noi ci fermiamo qui, un grazie ad Alessandro Chiappini per la parte tecnica, ci ritroviamo la prossima domenica, vi lasciamo con una quartina di Alessandro Ricci dalla raccolta La Quarantena per il verso giusto, ciao! Prepara la bici per l'estate, un panino al sole sul balcone e sognando epiche pedalate, ingrassa catena e pacco pignone.